Porsche. Elettra Lamborghini. Ti ho detto non sono facile e tu non sai come amarmi. Ripeti sempre ho tutto e non vuoi stare qui ad aspettarmi. Mi chiedi resta un po' ma non ho voglia di andare avanti. E se anche avessi ragione rischierei solo di bruciarmi. Guarda è solo un gioco, ti tengo solo per poco. Credi di avere il controllo ma non ci riesci, te pone sloco. Non continuiamo così, ho il cuore incasinato. Sto qui stanotte non ho congelato. Ti allontani e poi mi guardi. Ti giri e scappi dai tuoi sbagli. Non volevo più salvarmi. Senza te non vado avanti. Vorrei toccarti, ma no, no, no. Vorrei baciarti, ma no, no, no, no, no. Non voglio più stare così. Maldito dia che io te. Lontano, sto provando a dimenticarti. Stammi lontano, vorrei odiarti ma no, no. Stammi lontano, stammi lontano, stammi lontano, stammi lontano. Sul semaforo fermo da due canzoni. Quella prima era pure più adatta, visto il cielo su quel gattono. Tra le nuvole il più delle volte. Girare il mondo con molta più calma. Al contrario una mappa ti porta lo stesso a casa. A distanza di anni cantichiamo. Stammi lontano, maledetto il giorno in cui ti ho incontrata. Maledetto il cocktail e quel bar lì all'angolo, perché ci ha portati a dove siamo. Stanchi, amiamoci a distanza. Ti allontani e poi mi guardi. Ti giri e scappi dai tuoi sbagli. Non volevo più salvarmi. Senza te non vado avanti. Vorrei toccarti, no, no, no. Vorrei baciarti, no, no, no, no, no. Non voglio più stare così. Maldito il dia che io te. Che sia maledetto, che sia male dentro. L'unico momento in cui ti amo davvero. E tu vuoi stare meglio? No, non vuoi stare meglio allora.